La trasmissione dedicata all'attualità, alle notizie, alle vostre opinioni sui fatti della settimana. 800 24 00 24 è sempre il numero verde per telefonare liberamente qui a Non ci sono più le mezze stagioni, a dire che cosa vi ha colpito in particolare di questa settimana, a ritornare su alcuni fatti, quelli delle prime pagine, oppure anche notizie che sono passate un po' così in secondo piano. Con libertà, 800 24 00 24, come sempre però ho un'opinione, diciamo, al mio fianco, un opinionista ogni volta che viene, diciamo, da un'estrazione diversa, sia di formazione sia di tipo di attività. L'importante è che abbia scritto un libro che ha un titolo piuttosto accattivante, si intitola Coccodee. Lui ha detto che ce lo sa dire anche in altre 357 lingue, poi ce lo dirà Oscar Farinetti. Benvenuto Oscar. Benvenuto, grazie mille. Oscar, che è l'uomo dell'ottimismo, qualcuno lo definisce creatore di Unieuro, tutti sanno naturalmente di cosa si tratta, e poi artefice di questo fenomeno di grande successo che è Italy. Sì. Scritto con EAT come mangiare in inglese. È una crasi, sì. È la cosiddetta crasi tra tweet mangiare e Italy Italia. Sì, prima vendevo elettrodomestici e vendevo più elettrodomestici di tutti in Italia e mai nessuno mi ha cagato, come si dice. Sì, adesso ho fatto un negozio. Ho fatto un negozio di cibo e tutto il mondo si interessa a noi, meno male, sono contento, è la forza del cibo. Che è il più grande supermercato al mondo, mi pare di aver capito, sì. Di enogastronomia di qualità. Questa sì, cosa, è 11.000 metri a Torino. Non potevamo farlo in un altro luogo, la capitale, perché mai, la capitale del cibo italiano, un po' come Lione per la Francia. Ah, sì. E il cibo di qualità ha dimostrato, sta avendo un'attenzione enorme, le persone cominciano a comprendere che ciò che mettiamo dentro il nostro corpo è un prodotto diverso da tutti gli altri, no? Finora c'era stata un'attenzione più forte stranamente su ciò che mettiamo fuori dal nostro corpo. Sappiamo tutto dei cellulari, del computer, non sappiamo abbinare i prodotti alle stagioni. Anche se Schopenhauer mi pare già diceva, insomma, un po' di tempo fa, noi siamo quello che mangiamo. Era, quindi tu era l'hai preso in parola. Era Feuerbach, perdone, un altro uguale. Filosofo. Prima siamo sempre su. Bravo. Allora, adesso invece cerchiamo un po' di capire che cosa, a parte Vinitaly, dove appunto ci troviamo in questo momento, che cosa è successo questa settimana. Io tento sempre questa sintesi un po' impossibile delle notizie, però chiedo sempre poi ausilio a voi, ascoltatrici e ascoltatori, per raccontarmi un po' quali sono le vostre riflessioni, quali sono le notizie che secondo voi vale la pena di ritirare fuori e di cui vale un po' la pena di parlare qua di nuovo. Non ci sono più le mezze stagioni. Per esempio, a proposito della crisi, sapete che c'è stato il G20 a Londra, si è parlato di accordi, si è parlato anche dei paradisi fiscali, di leggi più dure da questo punto di vista, di come superare la crisi, poi ci sarà il G8, le proteste che ci sono state a Londra e che ovviamente parallelamente a queste grandi eventi non mancano mai, come adesso con il vertice NATO a Strasburgo, ci sono disordini, ci sono scontri, e poi con le agenzie, con l'ANSA ci teniamo comunque costantemente in collegamento, se ci sono delle novità, speriamo di no in questo senso, sono qua pronta a raccontarvele. E poi a proposito della crisi, c'è in piazza la CGIL, oggi per la manifestazione c'è anche il leader del PD Franceschini, sapete poi la nuova tragedia dell'immigrazione con 300 persone circa disperse al largo della Libia, quindi anche questo è un fenomeno che purtroppo non si ferma mai. E poi una cosa importante che è successa questa settimana, ognuno la vede un po' dal suo punto di vista, il giudizio della Consulta della Corte Costituzionale sulla legge 40, no? Sulla legge relativa alla fecondazione assistita, ha detto che c'è una parziale illegittimità in questa legge, quindi andranno riviste un po' le linee guida. C'è stato Fini, presidente della Camera, che ha detto finalmente reso giustizia alle donne questa sentenza della Corte Costituzionale, e Schifani invece presidente del Senato che ha detto non bisogna ragionare con i dogmi, l'UDC che ha chiesto le dimissioni di Fini perché lo dice paladino, insomma, di queste battaglie like. Cioè, vedremo anche qual è la vostra opinione o di Oscar Farinetti su questi argomenti, se volete 800 24 00 24. Poi, così, per andare un po' in ordine sparso, il caso della donna clandestina partoriente a Napoli denunciata dai medici, che sembra un po' anticipare questa una delle norme all'interno del pacchetto sicurezza che tante polemiche ha destato, ma poi un medico dell'ospedale di Napoli ha chiarito che in realtà, siccome era nato il bambino, bisognava denunciare comunque la maternità e bisognava sapere esattamente chi fosse la madre e che avesse un passaporto, comunque un permesso di soggiorno. Poi lo sapete che è stato di nuovo arrestato Mario Chiesa, l'uomo che ha dato il via con le bustarelle che aveva in mano a Tangentopoli, la grande inchiesta di Mani Pulite. In Francia la crisi si sente attraverso un fenomeno un po' particolare, ne avrete sentito parlare certamente in questi giorni, questi sequestri di manager e dipendenti che a un certo punto bloccano i manager dentro le aziende quando si rischia appunto i licenziamenti, hanno deciso un po' di dare il via a questa formula nuova che per certi versi ha portato i risultati, visto che Sarkozy con un'azienda in particolare, mi sembra questa settimana, ha detto vabbè, vediamo come risolvere la questione dei licenziamenti dopo che era stato sequestrato uno dei super manager. Israele ha un nuovo governo, quello di Netanyahu, che ha ottenuto la fiducia, però appena ottenuta la fiducia già c'è una grana, perché il primo ministro Lieberman di estrema destra adesso è indagato, sospettato di corruzione e riciclaggio di denaro. Poi lo sapete, il cambio ai vertici del Sole 24 Ore e del Corriere. In Afghanistan Hillary Clinton adesso si sta cercando insomma di pacificare un po' il paese, però con dei costi molto alti, di solito sempre per le donne. Il presidente Karzai sembra che dia via libera per accontentare gli sciiti a una legge che permetterebbe lo stupro all'interno del matrimonio e imporrebbe alle donne di uscire sempre solo col permesso e l'accompagnamento degli uomini, quindi si torna indietro ancora anni luce. L'Afghanistan non era il paese dei talebani che bisognava modernizzare e insomma portare a una civiltà più democratica. Insomma, tantissime le notizie, non so se Oscar già si vuole soffermare su una di queste o andiamo su altre. No, possiamo dire che ciò che mi ha colpito è che del G20 ci si occupa di più degli abiti delle mogli, dei leader o delle gaffe di Berlusconi rispetto magari alla sostanza, che mi sembra abbastanza importantina in questo periodo. Ah, direi proprio di sì, anche se è vero che un po' di costume intorno c'è sempre, forse a volte può anche sdrammatizzare, no? Non bisogna certamente porre solo quello sotto i riflettori, però... Assolutamente sì, sono d'accordo. Qua al Vin Italy stiamo sdrammatizzando molto. Forza di bere vino. Cerchiamo di rimanere sobri, però, ma nel frattempo colleghiamoci con un altro pianeta. Riflessioni da Marte. In un periodo storico in cui per l'appunto, come dice il titolo, non ci sono più le mezze stagioni, tutto cambia e si perdono i riferimenti, il senso di continuità, uno che invece alla continuità ha dimostrato di tenere davvero molto e senza dubbio, come dicevamo, Mario Chiesa. L'ex presidente del Pio Albergo Trivulzio di Milano, che con il suo arresto nel 1992 in flagranza di reato con una bustarella tra le mani praticamente ha dato il via all'inchiesta di Tangentopoli, ha voluto, nostalgico evidentemente dei proficui tempi andati, mantenere il filo della continuità e quindi dei suoi affari truffaldini, e a 17 anni di distanza dal suo primo arresto si è fatto beccare ancora con le mani nella marmellata, coinvolto praticamente nella gestione di un traffico illecito di rifiuti, perché d'altronde avrà pensato perdere le vecchie care abitudini, e così è rifilato dritto dritto a San Vittore, il carcere milanese. Chi invece non è razionale che finisca diretto in carcere è lo stupratore preso in flagranza del suo bestiale reato. Lo dice il CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura, che in questi giorni ha giudicato appunto irrazionale il decreto antistupri appena varato nei giorni scorsi, nella parte che prevede appunto che un uomo acchiappato mentre viola palesemente e per sempre la vita di una donna, nonostante tutto, non venga direttamente arrestato. Non c'è ovviamente bisogno dei disegnini, no, per capire cosa un ominide stia facendo in quel momento, eppure il CSM ritiene, poi si vedrà come vanno le cose, che sia irrazionale metterlo in carcere subito, perché questa misura, dice il CSM, vale solo per chi si macchia di reati mafiosi, per il resto bisogna invece aspettare il processo e la sentenza. Perché anche un povero stupratore, del resto, seppure colto sul fatto, avrà pur diritto a godersi la sua libertà finché non arrivi, semmai arriverà dopo qualche anno, una sentenza. E che diamine. Dunque, o si è mafiosi o si finisce e si finisce subito in galera, o si possono commettere le peggio cose, essere colti sul fatto che si può restare in libertà senza problemi. Sarà che la violenza sessuale continua a essere considerata nel nostro paese almeno una fisiologica bravata, o sarà che le carceri scoppiano di delinquenti e bisogna prendere quindi il ticket come in gastronomia per entrarvi? Mercoledì scorso, forse qualcuno avrà sentito, era stato annunciato che il piano casa del governo, che permette l'ampliamento di alcuni tipi di abitazioni, avrebbe contemplato anche l'ampliamento della volumetria delle carceri. Peccato che fosse un pesce d'aprile, perché per una volta si poteva pure parlare seriamente. Oscar, Allora, ti eri soffermato sul G20 dicendo che appunto andavano messe più a fuoco certe cose che non altre. Dicevamo che uno dei settori, forse l'unico settore in Italia che non conosce questa crisi, è qui dove ci troviamo, in mezzo al vino, no? Il settore enologico. Tu un po' te ne intendi, essendo stato il creatore di Italy, no? Sì, poi partecipo a 7 cantine, qui esponiamo con 7 cantine importanti. Non è proprio così, sai, c'è crisi nel vino. Il 2008 si è chiuso abbastanza bene, i primi 3 mesi in Italia sono fortemente negativi, ci salva l'estero. All'interno dell'Italia la grande distribuzione va bene, continua a tenere, vanno male i ristoranti. Nei primi 3 mesi la ristorazione, soprattutto quella di qualità, segna un segno negativo a doppia cifra. Beh, i ristoranti potrebbero anche un pochino abbassare i prezzi, no? Ma non ce la possono fare. Guarda, alla fine molti non sanno che alla fine i ristoratori sono quelli che guadagnano meno soldi di tutti. Ma è il mestiere più difficile della terra. Posso avere qualche dubbio, non sul mestiere più difficile, ma sul fatto che guadagnino meno. Ah, a proposito, scusa, mi fai venire in mente questa cosa allora, Oscar. Cioè, è stata pubblicata questa settimana la mappa delle retribuzioni in Italia dell'Istat. Non compaiono i ristoratori, forse non sono stati presi in esame, non lo so, però i lavoratori meno pagati, non è difficile crederlo, sono in Italia le colf, quindi le persone che appunto si occupano di incombenze domestiche, delle pulizie eccetera, e gli insegnanti. Mentre al top di questa statistica, di questa mappa delle retribuzioni in Italia dell'Istat, appunto, ci sono i giudici, i magistrati, che prendono una media di 110.000 euro medi all'anno. Beccano i giudici, non sapevo che beccassero tanto così. Beh, in realtà fanno un mestiere di grande responsabilità, mi rendo conto. Penso che se andiamo avanti così, fra qualche anno i più pagati saranno gli idraulici, i macellai, i fornai. Perché non li troviamo più. I pizzaioli. I pizzaioli sono così. Quasi tutti egiziani, sai, è bravissimi. Vero, è vero, bravissimi, anche a Milano. Bravissimi. Allora, io direi di cominciare ad andare sulle telefonate, sentire un po' quali sono le opinioni, il clima degli ascoltatori. Al numero verde 800 24 0024 c'è Giangi da Bergamo. Giangi, buongiorno. Giangi da Gianfranco, per caso è il classico? No, da Gianrenzo. Da Gianrenzo? È un nomignolo che mi ha dato da piccolino in famiglia. Capito, Giangi, carino. Giangi, che cosa ci racconti da Bergamo? Niente, io ho sentito ieri la questione dei bus di Foggia, che si è parlato di un nuovo apartheid, tutte quelle cose lì. Sì, ogni tanto allora, succede, c'è qualche episodio sgradevole, sì. Allora, io innanzitutto vorrei sapere se questo bus è pagato dal comune, e non mi sembra giusto, perché se così fosse, questo bus non andrebbe bene, perché il cittadino di Foggia comunque si paga il bus anche lui come gli altri, e questo dovrebbero farle anche queste persone immigrate, giustamente, come tutti. Ma vorrei dire una cosa, io vengo da una provincia a prevalenza leghista, che si dice che i leghisti siano razzisti di qua e di là. Forse avranno anche ragione per come si interpreta la cosa, perché a noi ci dicono di fare una cosa. Io vorrei domandare, non si è mai pensato nessuno che un politico potrebbe essere anche una persona normale, come, non so, un operaio, può essere un muratore, che può essere un metalmeccanico. Ma questo a che proposito lo dici, Giangi? Che senso? Che nessuno prova mai a lavorare spalla a spalla con un extracomunitario. Io ci lavoro tutti i giorni e devo dire che sono persone come noi, non differenti da noi, con pregi e difetti come tutte le persone. Certamente se poi si permette alle persone di venire a delinquere nel nostro paese, e comunque erano già delinquenti, e questo lo dicono la gente della loro terra, allora questo va fermato, ma non l'extracomunitario. Le premetto che io sono un simpatizzante della Lega. Cioè, la gente normale che viene qua per lavorare va ben accetta, mentre quelli che vengono per delinquere vanno cacciati via, perché creano problemi anche a questa gente dello stesso paese, che si ritrovano, come succedeva magari al povero siciliano o che sia, che andava, ecco, in America. Però Giangi, chiariamo per chi ci ascolta che l'episodio a cui ti riferivi tu è appunto questo bus che dovrebbe essere riservato solo agli immigrati, a Foggia e Bari, no, in Puglia. Su questo che si dice nuovo apartheid, nuovo di qui, nuovo di là, non è vero. Ma ti sembra giusto comunque che ci sia un pullman soltanto per persone che vengono da altri? Assolutamente no. Però, come dicevano, come ho sentito dire qui a Radio 24, la gente si lamenta del comportamento di queste persone. E permette che in uno Stato, che deve essere uno Stato che si fa rispettare per il rispetto verso i propri cittadini, che essi siano bianchi, rossi, neri, ci vuole un pullman per tutti. il rispetto delle regole da parte di tutti. Queste persone sicuramente hanno avuto qualcosa da dire, ma perché giustamente si ritrovavano con qualche problema con queste persone, con queste altre persone. Ma non è giusto fare un'altra linea, una linea per tutti. No, è chiaro, come dici tu, le regole rispettate da tutti, forse ci vorrebbero più controlli, anche qui siamo sempre sul tema della sicurezza, forse è un problema, diciamo, non facilmente risolvibile un po' per tutti i paesi, non solo per il nostro, però diciamo un po' più di attenzione, un po' più di vigilanza, in modo che ci sia una convivenza più civile, insomma, che ci siano stessi diritti e stessi doveri, forse sarebbe auspicabile. Gianji, ti ringrazio, salutaci. Che vino bevi di solito a Bergamo tu, Gianji? Ma a me piace un vino campano col pesce, il greco. Ah, campano. Di tufo. Il greco di tufo bianco, Brunello buonissimo. Insomma, sono intenditore. Ho capito. Vabbè. Grazie Gianji, grazie mille. Adesso abbiamo le indicazioni per chi sta viaggiando su strade e autostrade. Ricordatevi, se c'è qualche notizia di questa settimana che vi interessa in modo particolare, qualche riflessione che vi è rimasta impigliata tra i pensieri, questo è il luogo giusto per parlarne in libertà, 800 24 00 24. Per esempio, in particolare mi piacerebbe anche sapere su questa cosa della decisione della consulta a proposito della legge 40 sulla fecondazione assistita, no? Ci fu tanta polemica quando ci fu il referendum qualche tempo fa, passarono queste linee guida, diciamo, un po' restrittive. Adesso la consulta ci ritorna e queste linee guida andranno riviste. C'è stata anche questa dichiarazione, questa uscita un po' inconsueta di Fini, inconsueta rispetto magari al tipo di allo schieramento di cui fa parte la maggioranza, che su questo argomento era piuttosto favorevole a quella che era poi stata la legge 40. Siamo sempre insieme qui da Vinitaly, dal padiglione di Confagricoltura, Roberta Giordano con voi. Il mio opinionista di oggi è Oscar Farinetti, che è l'inventore, dicevamo, di UniEuro, è l'artefice del fenomeno Italy, il più grande supermercato al mondo di gastronomia di qualità. E mentre ci soffermavamo un po' sulle notizie, poi naturalmente daremo spazio ancora alle vostre telefonate, 800 24 00 24, lui mi diceva, da esperto di gastronomia e di enologia, una cosa un po' particolare che vorrei, in questa breve pausa in cui abbiamo ascoltato le indicazioni per chi sta guidando, una cosa un po' originale stavi dicendo. Sì, stavo raccontandoti che la prima volta che sono arrivato a Fontana Fredda, nelle Langhe, dove si fa il barolo Piemonte, sì. In Piemonte, e lì applicano l'agricoltura integrata al 100%, utilizzano cioè tutti i metodi naturali per far sì di usare il meno possibile gli agrofarmaci. Uno di questi sono i dissuasori sessuali. Sono fatti in maniera che creano confusione di parassiti, che invece di andare a fare l'amore con la parassita vanno su un palo e fanno una sorta di autoerotismo. In questa maniera non si moltiplicano. E quando tu chissà parlavi... se il palo gradisce, questo non lo so, ma comunque... No, insomma, è un palo. Quando tu parlavi di questi stupratori, questi disgraziati, per i quali sono assolutamente favorevole di metterli in galera subito, io sostengo che invece di castrarli chimicamente, forse gli mettessimo un dissuasore sessuale in tasca. Uno di quelli, magari funzionano per gli insetti, vanno bene anche per gli uomini. Bisognerebbe fare una prova. No? Esatto, gli creano un po' di confusione e fanno autoerotismo e la smettono di fare queste porcherie in giro. Allora, no, qui ci sta in questa cosa che hai detto, una cosa ovviamente drammatica, ma una cosa anche molto simpatica e creativa. Io dico che per risolvere i problemi intanto bisogna prenderne profondamente coscienza, e credo che in Italia e anche nel resto del mondo su un tipo di questione come questa ancora non ci sia la cultura data, e bisogna che vi sia, bisogna che si facciano le riflessioni necessarie, senza paura, insomma, di risalire alle cause, di capire, insomma, quali possono essere le soluzioni. E poi ci vuole anche, è vero, cercare di avere un po' di pensiero laterale, di creatività in queste cose, e capire in che modo si potrebbero, se non risolvere, quantomeno arginare. Per questo che profondo rispetto per il disagio. Vedi, da tutte le notizie che tu hai dato, da questa bellissima telefonata di Gianji, che se tutti i leghisti fossero così, e cioè diventassero tolleranti come questa bellissima persona che ci ha telefonato, perché alla fine la tolleranza nasce questo fatto, il disagio, c'è molto disagio sociale e questo è un problema prima di tutto per chi lo prova, ma poi per tutti gli altri. Bisogna avere profondo rispetto per il disagio e ragionarci bene e mettere tutti più tolleranza. Oh, Adesso invece, riandando, mentre tra poco diamo di nuovo spazio agli ascoltatori, al numero verde 800 24 0024, ogni tanto ve lo ricordo, questo brusio che sentite non è dentro Radio 24, di solito siamo molto insonorizzati, è proprio l'allegro chiacchiericcio che c'è qui a Vinitaly, che è la più grande manifestazione mondiale dedicata al vino, dicevamo, con dei buoni risultati, anche se Oscar Farinetti ci ricorda che la crisi tocca anche un po' il settore enologico. Dicevamo, prima della mappa delle retribuzioni in Italia dell'Istat, e poi una cosa interessante, visto che tu parlavi di natura, Oscar, c'è una ricerca, anzi una richiesta, un invito mondiale alla popolazione, anzi europea, da parte dell'Open University e della University College di Londra, che vuole coinvolgere tutta la popolazione europea nel censimento delle chiocciole di terra e invita tutti a studiarle nei propri giardini, nei parchi, nei boschi, eccetera, e studiarle, vedere le conchiglie come sono le righe, eccetera, perché rappresentano dei modelli di evoluzione perfette, degli organismi perfetti. In base a questo si può capire come sta cambiando il pianeta, come sta cambiando il clima e quali potrebbero essere anche poi i condizionamenti e i riscontri sugli esseri umani in questo senso. Tu le studi ogni tanto, le chiocciole? No, le chiocciole mai, poi vanno piano, io sono costretto per il lavoro che faccio ad andare forte, quindi non riesco a integrarmi bene con la velocità delle chiocciole, anche se mi piacciono le lumache alla parigina da passi. No, ma diciamo, scusa, uno si studia le lumache così vive e tu ti dici che ti piacciono. Devo le scargoti piacciono a te. Su questo tema però del problema del clima in generale, di come sta cambiando il pianeta, hai notato che è bastato un inverno un po' normale, con un po' di neve, con un po' freddo, di freddo, vero. Più nessuno parla, non c'è più il problema, no? Intanto i ghiacciai si sciolgono. No, il problema c'è, il problema purtroppo c'è sussiste, e poi lo chiederemo ancora al colonnello Giuliaci più tardi quando lo sentiamo. Invece ci sono le telefonate, ma evidentemente qui dal portatile che ho qua quasi sotto il mio braccio qui a Vinitaly non riesco a visualizzarle. E c'è in onda, vediamo se riusciamo a far sentire, c'è un ascoltatore in onda, e però non riesco a vedere poi il suo nome sul niente, no, mi dice che non in questo momento non si riesce a passare. Allora ritorniamo invece sulle notizie, mentre vi ricordo il numero verde 800 24 0024. Che cosa pensi, Oscar, sempre di un problema relativo alla crisi? Mi pare che fosse una trasmissione della TV, della RAI, Rai 1, di qualche giorno fa, un sondaggio hanno fatto e l'80% degli italiani sarebbe favorevole alla settimana corta, cioè lavorare tutti meno, però lavorare tutti. Tu che sei comunque un imprenditore, di una idea del genere che cosa... Penso che sia una stupidaggine. Regolare il lavoro come fosse un regolamento ordinario è una stupidaggine. Il lavoro bisogna lavorare tanto quanto serve, perché le imprese, le cooperative funzionino. Mettere un orario fisso non va bene. Io per esempio sono per essere liberale in modo totale, cioè gli straordinari fino a oltranza proprio. No, se servono, quando non servono non si fanno. Sono per tenere i negozi aperti sempre la domenica 24 ore su 24, se l'imprenditore, il negoziante vuole farlo. Sì. Devo dirti che penso che bisogna impegnarsi un po' di più in generale sul lavoro, perché c'è un po' una caduta di speranza, no? Tu sai qual è il prodotto in assoluto che ha avuto il maggior incremento di vendite nel primo trimestre? Qui in Italia? Sì, è il Gratta e Vinci. Ah beh, questo sì. Più 260%. Con la crisi la gente si butta nella speranza. Sì, ma sta diventando un problema. Con un colpo di fortuna di Guarda avere... che è un problema grosso, perché il marketing della speranza nuova, illusoria. Sai che è successo un fenomeno, lo raccontava il tabaccaio vicino a Italy, a Torino, è successo un fenomeno stranissimo. L'ultimo giorno dell'anno, dell'anno scorso, per motivi logistici non sono arrivati i Gratta e Vinci, c'erano decine di migliaia di persone che vagavano disperati da un tabaccaio all'altro alla una ricerca forma di della dipendenza Gratta e Vinci. Diventa questo è un questa, problema, no? Sul quale dobbiamo ragionare. Allora, invece torniamo sulle telefonate degli ascoltatori, c'è Sergio da Rimini e poi c'è Piero da Roma. Sergio, buongiorno a te, Sergio. Sì. Sergio. Volevo intervenire sulla telefonata che ha fatto un altro da Brescia prima, sì, non mi ricordo il nome. Sì. E io ho fatto l'autoferrotranviere per tutta la vita, potremmo dire. E quello che penso io è che l'azienda dei trasporti abbia voluto favorire questi extracomunitari creando una linea che arrivasse al loro centro, perché la linea, da quello che ho sentito io ai telegiornali, non è vietata sia l'una agli italiani che l'altra agli extracomunitari. Sono due linee che una è il prolungamento dell'altra e arriva fino al centro degli extracomunitari. Non è razzismo questo, è creare qualcosa che dà di più. Certamente. No, io avevo letto, scusami Sergio, avevo letto che era per questioni di ordine pubblico che si era chiesto un intervento di questo tipo alle aziende dei trasporti e evidentemente anche alle forze di sicurezza. Non era un ordine, ovvero sia c'era anche l'ordine pubblico, perché tra gli italiani e gli extracomunitari non c'era un buon accordo e fin qui non dovrebbe esserci, ma al di là di questo, a prolungare una linea per portarla fino al centro, a me sembra che sia stata una cosa buona, non una cosa cattiva. Se poi su quella linea non salgono quelli di Lecce, di Bari, pazienza. Però è stato un qualcosa creato in più, non qualcosa che è stato tolto, qualcosa o che l'altra linea fosse vietata agli extracomunitari. Però o che quella... Sergio, scusami, secondo te poi si crea una vera integrazione se cominciamo a fare anche i pullman specifici per gli italiani e gli extracomunitari? Ora, quelli no, che... Non è specifico per gli extracomunitari quella linea. Quella linea la possono prendere tutti. Tutti possono prendere su quella linea. E quella linea raggiungere anche il centro di extracomunitari, mentre l'altra arrivava 2 chilometri prima. Pertanto non vedo perché questo venga considerato razzismo. Il razzismo c'è quando e io l'ho provato sulle mie spalle, quando il pullman è carico di 30 extracomunitari e che alla fine fanno loro i padroni del pullman. Credo piuttosto, Sergio, credo, anche se è vero che siamo sempre, diciamo, in difetto di forze dell'ordine, di organico in questo senso, che forse su certe linee in particolare, io per esempio ho esperienza anche a Milano, ci vorrebbe almeno in certi orari un poliziotto, una poliziotta, qualcuno insomma che rappresenti le forze dell'ordine, perché è vero che in certi orari, soprattutto in tragitti di periferia, poi salgono soprattutto certi disperati, certi malintenzionati. Invece che fare dei bus separati, io direi ogni tanto un pochino più di controllo. Sempre Roberta Giordano con voi, noi siamo immersi in questo clima festoso, chiacchierato di Vinitaly, la più grande manifestazione al mondo dedicata al vino, siamo nel padiglione di Confagricoltura qui da Verona e c'è mio ospite Oscar Farinetti, fra le altre cose autore di questo libro che si chiama Coccodea, una bella gallina sulla copertina, è uno dei miei animali preferiti, la gallina, che sembra strano, eppure io sono, diciamo, un'estimatrice di galline. Oscar, perché l'hai chiamato Coccodea? Fai bene essere un'estimatrice di galline, perché la gallina fa l'uovo e poi dice coccodè. Ti avverte, cioè la spia. A differenza del tacchino, che è un po' stupido, la tacchina fa l'uovo e non dice un tubo. E il contadino, o forse è più furba, dice io lo faccio così nasce il povero pulcino. Certo, no, invece di... perché il contadino si arrabbia perché non riesce ad andarlo a prendere fresco. E accoppa il tacchino. Però. In realtà è la gallina che ha inventato il marketing, perché il marketing consiste assolutamente in questo, nel fare l'uovo e poi dire coccodè. È il marketing semplice, quello che piace a me. E tu ti senti un po' gallina. Ti comune. Senti un po' gallina, Oscar? Sì, io mi sento molto gallina, non gallo ma gallina, perché cerco di fare le uova meglio che posso, ma poi dico cocodè. Meglio perché che puoi, lo se dice non anche diciamo cocodè, non serve non fare l'uovo. Non se ne accorge nessuno del vero? Prodotto, è vero. E quindi dentro questo libro c'è la vera storia di Italy e ci sono tutti i segreti del nostro marketing, che sono così semplici, che possono capirli tutti. Io sono un po' preoccupato perché... Ti possono rubare le idee sì, da no, questo perché libro. Sì, no, perché Giunti mi ha detto che se ne sono già vendute la decine di migliaia di copie. Milioni, mi sembra. Di io sono preoccupatissimo perché qui impareranno tutti a fare Italy e questo è un problema, che dovrò già cambiare mestiere. Allora, ritorniamo sugli ascoltatori che sono molti al numero verde 800 24 00 24. Avevamo detto Piero da Roma. Piero, a te. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te, Piero. Che tempo c'è a Roma? Dottoressa, che sta finita lì per Baco. Sì, ma devo rimanere sobria per Baco, nonostante Baco. Ecco. Chissà che vino beveva Baco. Finora acqua liscia per il momento, neanche le bollicine. Senta, dottoressa, sì. A me mi ha colpito come ogni anno di questi tempi escono fuori delle statistiche inerenti alle tasse, che alla fine le pagano soltanto gli impiegati e i pensionati. Coloro con lavoro dipendente, diciamo, si dice che l'evasione... I lavoratori e i pensionati. Allora, sì. io chiedo, noi dall'America copiamo sempre le cose brutte, le cose buone non esistono, non è possibile. Allora qualcuno ci deve spiegare perché uno deve votare centro-destra o centro-sinistra, quando da decine di anni si sa che il problema principale sono le tasse che non le pagano tutti in base al proprio introito. Allora io dico, i professionisti, i dentisti, gli artigiani, gli idraulici, i falegnami e quant'altro, risultano tutti poveracci e invece i lavoratori ricchi, per cui l'Italia va avanti attraverso la tassazione di queste persone che non si possono non possono evitare. Allora io dico, ma perché tanto cielo a tutti i cittadini non viene permesso di poter defalcare dalle tasse ogni lavoro che fa, ogni volta che va a comprare qualche cosa, così come si fa in America? Sic et simpliciter, questa è la formula migliore, altrimenti non se ne verrà mai a capo, ci saranno sempre delle profonde ingiustizie. Vediamo delle persone che dicono di essere dei poveracci, hanno delle barche di 20 metri, ville al mare e in montagna, e il cittadino comune risulta molto più ricco e fa la fame. Sì, lo so Piero, no, questo hai ragione, è un vecchio problema e in Italia ci riguarda in modo cospicuo. Spesso si dice che se si combattesse l'evasione in modo più efficace, ecco, poi diciamo che i finanziamenti, i soldi pubblici, il paese, il PIL e tutto il resto, insomma, andrebbe sicuramente meglio e sarebbero tassati meno quelli, un po' meno quelli che le tasse le pagano sempre comunque, proprio perché appunto lavoratori dipendenti. Grazie Piero. C'è invece adesso una donna, Maria da Pistoia. Salve, eccoci Maria. Buonasera a tutti, anche agli ascoltatori. A Pistoia si dice già buonasera perché è toscana, quindi cosa sono le 2:40? Va bene, diciamo buonasera allora. Poi qui è nuvoloso, quindi già sembra l'imbrunire. Sì. Benissimo, anche qui non è che ci sia questo tempo favoloso, un po' di sole pallido a Verona, qui al Vinitaly si intravede. Allora Maria, su cosa volevi soffermarti? Allora, mi volevo soffermare sull'argomento della violenza, per la violenza sulle donne, che sì, forse proprio perché donna mi tocca particolarmente. Beh. Allora, io ho visto, insomma, ho sentito, seguendo le vicende in televisione, che l'Italia sta tentando di arginare il fenomeno, il problema grossissimo in qualche maniera, diciamo aumentando le pene con maggior severità, e tutto va bene, cioè qualsiasi cosa, insomma, va bene. Poi mi permetta però di fare una riflessione. Prego. In Afghanistan, al Karzai, il capo dello Stato, qualche giorno fa, insomma in questi giorni, sta varando una legge sullo stufo per permettere lo stufo sulle donne all'interno del matrimonio. Sì, lo ricordavo, ecco, all'inizio, infatti. Allora, che cosa succede? Io, da cittadina italiana, che so che l'Italia è impegnata in Afghanistan, sì, per la pacificazione in Afghanistan, ed ha anche grossi finanziamenti, è coinvolta per la pacificazione, per il peacekeeping, come si dice in inglese, in Afghanistan, e in più stanno anche finanziando un po' la ricostruzione del paese, quindi io direi di agire anche su queste misure e non fare chiudere Frattini, anche se fatto sentire in questi giorni che non siano solo parole, ma che si incida poi su queste cose. Se davvero vogliono varare una legge del genere, in qualche modo li si penalizzi su questi finanziamenti e sul resto, su quello che l'Italia sta facendo per la donna. Posso fare una polemica? Ulteriore. Allora, il Papa parla di preservativo e l'Unione Europea tutta si inalbera. Polemiche, la Merkel che chiede spiegazioni. Ora, la Merkel come donna, oltre che come capo dello Stato, perché non si indigna altrettanto? Ci sono due pesi, due misure. Questa cosa qui mi indigna ancora di più del problema sollevato. Nel senso, se l'Unione Europea democratica ha questa visione sulla violenza delle donne, perché non c'è stata una polemica forte da parte di tutti, non solo dell'Italia? Siamo poco credibili, cioè l'Italia sarebbe stata più credibile se avesse detto non solo si aumentano le pene, ma a questi stati farabutti, mi permetta la parola, si tagliano finanziamenti, si fanno tornare indietro gli uomini impegnati. Questo è un messaggio forte che arriva anche da noi a quel punto, anche nel paese. Hai perfettamente ragione Maria, e ti appoggio in questo. Dicevo che appunto il ministro degli esteri Frattini ha detto in questo senso che Karzai si rimangi un po' questa cosa, purché non rimangano solo così tiepide minacce o parole, ma che poi si agisca veramente come dici tu Maria. E ricordo, alla fine Hillary Clinton, io ci avrei tenuto che fosse diventata Presidente degli Stati Uniti perché è una donna, quale sarebbe stata una svolta mondiale, epocale nella storia, e perché è molto sensibile ovviamente a certe tematiche. Però con Obama, insomma, spero che siamo comunque sulla buona strada. Però lei che ha messo proprio in rilievo in questi giorni questo problema e ha detto, perché si trovava in Afghanistan, non si può sviluppare un paese se metà della sua popolazione viene oppresso, che è un problema relativo a moltissimi paesi nel mondo, no? Anche se si usa dire ma lì le regole sono lì, questa è la cultura di quel paese. Quando si dice questa frase, è una frase criminale, perché spesso è poi pagata dalle donne, no? È la cultura parziale di una parte di quella popolazione che schiaccia l'altra, quindi non si può far passare per tollerabile l'intollerabile perché è cultura altra, non è cultura altra questa. Grazie Maria di esserti soffermata su questa notizia in particolare. 800 24 00 24, il numero verde. Oscar, volevi, Farinetti, volevi intervenire su qualcosa che è stato detto finora? Piero e le tasse, ottimo ragionamento. Io sono favorevole ad aumentare un po' le imposte indirette, cioè quelle sui consumi, e a ribassare quelle dirette, cioè quelle sul reddito, su cui c'è grande evasione. Per far pagare le tasse bisogna far diventare bello pagarle. Intanto siccome forse far capire a cosa servono, che molti forse in Italia non sanno a cosa servono, no? I servizi, l'istruzione, la sanità e i trasporti, come li paghiamo se non si pagano le tasse? Tu dai volentieri dei soldi ai galantuomini e glieli dai malvolentieri, perché sai che li usano bene per gli altri, li dai malvolentieri ai mediocri, perché sai che li usano per sé. Oggi l'immagine che abbiamo noi italiani dei nostri politici, dei nostri governanti, non è proprio quella dei galantuomini. Se ci fossero tutti galantuomini a governare il paese, gli daremmo più volentieri i quattrini. Secondo me bisogna fare così. L'unica maniera è quella di far diventare bello pagare le tasse, e un po' meno, e soprattutto di rivedere la politica delle tasse sulle imprese. Per esempio, secondo me le imprese che reinvestono completamente gli utili per lo sviluppo, per aumentare i posti di lavoro, devono avere diritto a pagarne di meno rispetto alle imprese dove gli imprenditori, che in questo caso sono prenditori, si beccano gli utili e se li mettono in saccoccia. È carina questa cosa. 800 24 00 24 per le notizie sulle quali volete soffermarvi, su tutte le cose che vengono dette naturalmente qui durante la trasmissione in diretta da Verona, da Vinitaly, quindi ogni tanto lo dico, lo specifico, tutto questo chiacchierare che c'è in sottofondo è inevitabile perché siamo nel bel mezzo con Radio 24 di questa manifestazione internazionale. C'è Massimo da Bergamo, sempre al numero verde 800 24 00 24. Massimo. Ciao Roberta. Ciao Massimo. Buona giornata. Buona giornata a te. Niente, che bel posto che sei. Sì. Da invidiare, eh? Siamo in una specie di acquario con tutte le persone qui che si dilettano di contemplare le bottiglie e di fare anche degustazioni. Niente, insomma, speriamo che riesca il Vinitaly a farti dare un po' il sorriso in questo momento un po' anomalo. Diciamo è un settore che forse la crisi è un po' meno degli altri, almeno l'ha sentito. Massimo, dici pure. Volevo puntualizzare il fatto sul discorso di come le aziende in questo periodo tendono a mettere in spiegazione o a fallire molto velocemente. Penso che realmente la crisi c'è, e non dovuta logicamente per colpa della gente, ma per colpa di come è stata gestita l'economia e la finanza in questi anni da gente inesperta assolutamente. Poi quella che tante aziende stanno cercando di ristrutturare sulla pelle degli operai e degli impiegati, mettendo in cassa integrazione, anche se hanno ordinativi, anche se hanno la possibilità di lavorare, solo per ristrutturare. Ecco, direi a qualcheduno, che sia la Guardia di Finanza, che sia le istituzioni, di controllare questa cosa, perché sì, su questo hai ragione Massimo. Ovviamente non ne facciamo una cosa generale, però in una crisi che è comprovata ed è mondiale, è vero che qualcuno, una piccola minoranza, un pochino di questa cosa un po' ne approfitta. Grazie Massimo. Tra pochissimo c'è anche il colonnello Giuliaci che ci dirà, insomma, se qualche rondine fa primavera. Non so se qualche piccola rondine si è vista, però qua il tempo è ancora tarda a decollare. Ma tra pochissimo il colonnello, vorrei sentire ancora, abbiate pazienza, al numero verde 800 24 00 24 c'è Lina da Brescia. Lina da Brescia, poi avremo anche la viabilità. Lina, prego. Benvenuta intanto, qui non ci sono più le mezze stagioni. Posso parlare? Puoi parlare, Lina, liberamente, prego. Sì, Dunque, mi riferivo alla signora che parlava prima dell'eventuale scarico dal bilancio familiare delle spese per idraulico, per lavori di ristrutturazione per le scuole private, che era stato istituito allora col codice fiscale proprio per permettere il controllo incrociato, per cui io famiglia scarico la spesa e pago l'IVA ma non pago le tasse sul mio reddito, però si inquadra esattamente il reddito del prestatore d'opera, come succede del resto in America. Invece poi la cosa è finita lì, non so se si ricorda. Sì, adesso non riesco a tenere tutto perfettamente a mente, ma No, quando risale all'epoca del codice fiscale, che avevano detto che era nato proprio per il controllo incrociato delle entrate e delle uscite, che sfuggivano sempre, come stanno sfuggendo adesso. D'altra parte, se a me viene l'idraulico e mi dice se non ti faccio la fattura ti risparmio il 20%, io lo risparmio. Una vecchia abitudine nostra. Dalle mie tasse me lo faccio fare. E in America si scarica tutto, così mi hanno raccontato. Sì. No? Lina, che vino bevi a Brescia? Tu ogni tanto ti diletti? Oddio, io ne bevo poco, bevo il vino di Botticino, che è locale qui da noi. Ah, ho capito. Ancora della Francia Corta. Un po' un vino della casa quasi, ho capito. Grazie Lina, è anche bella l'abitudine dei vini della cooperativa Oscar Farinetti, che dici? No? Ma certo, ci sono delle cooperative che fanno del vino strepitoso in Italia, è una filiera diretta. Sto parlando contro il mio interesse, che ho 7 aziende di vino che non sono cooperative, ma una filiera diretta dall'agricoltore. E quando sono ben gestite fanno del vino molto buono. Oggi non è il caso di spendere troppi soldi nel vino. Ci sono dei vini di buona qualità a dei prezzi non elevati. Prezzo, comunque prezzo non elevato, cosa intendi tu? 5-6 euro la bottiglia. Bene, secondo me vino. Sotto quella cifra lì è un problema fare del vino di grande qualità, ma tra i 5-6 euro e i 10 euro si può trovare vino di grandissima qualità. Tanto abbiamo scoperto che ne beviamo tutti molto meno. Sai che il consumo degli italiani è passato in 20 anni da 60 litri a 35. Lo ai giovani migliore. Piace un po' meno forse, no? Le nuove generazioni, le nuovissime. Sì, anche perché è un po' caro. E poi sai che cos'è? È un po' formale, mentre la birra è informale. Ma se tu pensi che nei pub e nei bar pagano 33 cc di birra a 5 euro, fa 15 euro al litro, che corrisponde a 12,50 euro per una bottiglia di vino. Quindi ai ragazzi vorrei dire di fare un po' più bene i conti e che con gli stessi soldi possono bere un vino italiano di grande qualità. Quindi bere poco ma di qualità. E io direi a questo punto di dare la linea prima di Mario da Verona. Mario, ci sei? Ci aspetti ancora un attimo? Mario? Ciao. C'hai ancora un po' di pazienza, scusami. 800 24 0024, c'è il colonnello Mario Giuliacci. Colonnello Giuliacci, eccomi Roberta. Eccoci, scusa colonnello, tu hai bevuto a pranzo, ti fai ogni tanto il tuo... Ma certo, ho bevuto, direi, posso dire, un prosecco del Veneto. Io sono appassionato dei vini del Veneto, ho tre, bevo come meteorologo, bevo, del resto fa bene alle previsioni. No, però le previsioni le fai da sobrio sempre, no? Sì, certo, non vengo con la bottiglia di vino in studio, no. No, ci dici che viene la primavera, invece sta primavera non arriva. Perché, scusa colonnello Giuliacci, in questi giorni, o ieri mi sembra, il governatore Draghi, il governatore della Banca d'Italia, ha detto questi segnali di rallentamento della crisi sì ci sono, però attenzione che una rondine non fa primavera, ma adesso per la primavera quella climatica, siccome continuiamo a illuderci che sia decollata, dacci buone notizie. Ma io direi che è decollante in tutte le sue aspetti, perché come più volte ho detto, attenzione, la primavera non è quella che intende l'uomo della strada, che è una deformazione letta su libri scolastici, no? La primavera, i prati verdi, il sole che risplende tutti i giorni, temperatura gradevole. La primavera è una botta al cerchio, non alla botte, ci sono giornate che rassomigliano. Certo, giornate che rassomigliano all'inverno e giornate che rassomigliano all'estate. È vero che quest'anno sono state più le giornate che rassomigliavano all'inverno che quelle che rassomigliavano, diciamo, in anticipo d'estate. Questo però un lo po' posso... di pioggia in meno non guasterebbe tutto non sommato. Non guasterebbe. E ora, in effetti, oggi anche stiamo vivendo anche noi un momento. Oggi, per esempio, siccome le nuvole, per esempio, in questo momento sta piovendo sul Basso Veneto, su tutto l'Appennino Tosco-Emiliano, sul Piacentino, e queste nuvole, queste piogge si estenderanno probabilmente alla medio alta Toscana. Bene, chi è in queste aree dirà: oddio, oggi è ancora una giornata brutta, ma l'80% dell'Italia in realtà oggi godrà di una giornata vigorosa, voglio dire, già con impronta primaverile. Quindi bisogna un tantino, ecco, sì, prego. scusa colonnello, domani che succede ora, domenica, che uno magari allora, si vuole anche diciamo oggi successo. Ancora quindi la possibilità di qualche rovescio in Veneto, Emilia, Est della Lombardia, la medio alta Toscana, un po' le regioni appenniniche, le zone più interne, ecco. Domani ancora sono quasi le stesse aree perché le nuvole, anche i rovesci, ma legati soprattutto al pomeriggio, le piogge compariranno quasi esclusivamente il pomeriggio, saranno nel Veronese, guarda caso il vino lì lo vogliamo annacquare a tutti i costi, con Vinitaly, lì è per pacco, va male. Veronese, Lombardia, est del Piemonte e regione appenninica, ma sul resto d'Italia ugualmente direi, non dico che splenderà deciso il sole, comunque è una giornata senz'altro decorosa e accettabile. Poi senti, dopo, però, lunedì, dalla prossima settimana, vogliamo avere una scadenza per dire, da lì, lì è il crinale dove si può dire che l'inverno ce lo siamo lasciato alle spalle e la primavera ormai c'è ma un momento. Che ogni giorno guadagnato in più ormai è un passo verso l'estate, almeno in termini di temperatura, in termini di ristabilimento del tempo ancora non giurerei, perché aprile, sa, il proverbio dice aprile ogni giorno un barile, no? Che no, ovviamente, non era dolce dormire, vabbè, comunque sono... sì, quello sì, per l'aspetto personale, ma dal punto di vista del tempo, voglio dire, anche aprile è tipico primaverile, per cui ci saranno giornate come lunedì, martedì, in cui il tempo sarà bello, mercoledì torna a peggiorare, giovedì, venerdì di nuovo migliora, poi fine settimana, guarda, non vorrei tradire le aspettative, perché ci sono alcuni modelli che dicono che il tempo volgerà al brutto, anzi che dicono che sarà bello, probabilmente la verità sta in mezzo, probabilmente le festività pasquali saranno con un po' di nuvole, qualche pioggia limitata a pochissime regioni, ma in prevalenza solo nuvole, non cieli sereni, ma non farà freddo, per cui voglio dire la classica gita fuori porta dovrebbe essere assicurata, anche se la crisi abbiamo capito che colpisce anche la meteorologia, comunque e il clima. Grazie colonnello Giulianci. Grazie, buon prosecco a te. Saluto, ciao colonnello, ciao ascoltatori, buongiorno. Grazie, tra poco chiederò a Gigi Borghi che fa assistenza in regia, che ringrazio, da Milano, di chiamare anche la nostra Valeria della Valle, e poi prima di dimenticarmi, perché poi chiudo sempre velocemente, mi dimentico che qui da Milano ci sono Filippo Reggi e Davide Ciocia per la messa in onda da Verona, scusate, poi da Milano invece c'è Giacomo Spunta. Sempre insieme, ancora per qualche minuto, qui da Vinitaly da Verona, Roberta Giordano con voi, Oscar Farinetti, inventore di Italy e autore di Cocodè per l'editrice Giunti, numero verde 800 24 00 24, poi c'è Valeria della Valle tra poco, ma c'era Mario che ha avuto un'infinità di pazienza. Scusa Mario, prego, a te la parola. No, prego, è sempre un piacere ascoltarvi. Intanto grazie per tutta la programmazione che fate, siete veramente grazie. Eccezionali. Tra l'altro sei qui da Verona anche tu, quindi stai chiamando? Sì, io sono, mi reputo un ospite da circa 20 anni a Verona, ci sto molto bene, quindi spero di rimanerci a lungo. Ecco, mentre, però io Roberta, sì, ti do del tu perché ormai per me siete certo, familiari. Certo, è obbligatorio. Ecco, sì, io ho chiamato perché quando ti ho sentito dire che sarebbe bello avere su alcune vetture degli autobus, io sono conducente di autobus, qualche poliziotto, oppure insomma qualche persona che... almeno in certi orari, sicurezza. Almeno su certe linee, secondo no, me. No, però anche in questo caso io vorrei dire una roba, io ho quasi il terrore che anche in questo settore dove non esiste un'emergenza sicurezza, questo è giusto che i cittadini lo sappiano, a volte si fanno delle operazioni solo ed esclusivamente a titolo di sponsorizzare... Emotive, diciamo. No, ma soprattutto per sponsorizzare questo o quel politico. Esempio pratico a Verona, dove alla sera viaggiano delle guardie giurate negli autobus. Però io ho sempre ritenuto opportuno che fosse prima di tutto importante curare la garanzia del servizio, perché io ho più paura se una delle mie figlie... per un motivo o per un altro deve aspettare un'ora e mezza di sera a una fermata, perché siamo nel paradosso che se dovesse per un motivo o per un altro saltare una corsa, la gente si trova ad aspettare 2 ore magari in posti un po' distanti. Io credo che la sicurezza sia quella là, poi se c'è di più ben venga, però ecco, ripeto, in questo momento di crisi sarebbe opportuno in tutti i servizi, se ben chiaro, ma garantire la qualità e la quantità dei servizi piuttosto che fare operazioni di sponsorizzazione appunto di questo o di quello schieramento. Sei stato politico. Chiarissimo, ti ringrazio. Grazie. Mario, grazie mille. Adesso devo dare la parola a Valeria Della Valle, che come al solito, Valeria, siamo in corsa, non ti far venire attacchi cardia, scusami. Valeria, allora, di cosa ci occupa linguisticamente, cosa ti viene in mente, tu che sei linguista della Sapienza di Roma, in questo momento, sì, in questa puntata? Allora, in questa mi viene settimana. In mente, in modo molto veloce, che il rapporto del vino con, visto che è la giornata, con la lingua italiana è sostanzialmente un ottimo rapporto. Pensiamo solo a tutti i modi di dire che ancora si continuano a ripetere e che hanno come elemento centrale il vino. Ne ricordo qualcuno: finire a tarallucce e vino, dire pane al pane, vino al vino, buon vino fa buon sangue, l'acqua fa male, il vin fa cantare, il riso nasce nell'acqua e ha da morire nel vino. Potrei continuare a lungo, non lo faccio. Il vino veritas l'hai detto. Sì. Ecco, e chiudo con uno di questi modi di dire, che è in vino veritas, no? Ecco. Nel vino sta la verità, perché chi ha bevuto abbondantemente non fa mentire. Quindi addirittura anche chi non conosce la lingua latina continua a ripetere questo modo di dire, no? Proprio sta a rappresentare una continuità, che è una continuità linguistica, culturale, storica, e che rappresenta questa antica tradizione del bere un buon vino. Quindi mi pare che ci sarebbe molto da dire sul vino e anche sulla lingua italiana, che una volta tanto si sposano bene. Valeria, dimmi solo che cosa bevi tu di preferenza. Ah, aspettavo questa domanda. Allora, io ho una passione smodata e ne bevo tanto e non mi ha mai fatto male, non dico la marca per ovvi motivi, no. Ma dico il tipo, il vitigno, sì. È un vino piemontese ed è il Gavi. Per il quale davvero insomma ne abbiamo sempre una grande scorta e appena rischia di finire ne facciamo una nuova provvista. Vai a fare rifornimenti con il camion, ho capito. Grazie Valeria Della Valle. Prego, arrivederci. Grazie mille a te. Siamo in chiusura, c'era Oscar Farinetti che sembra provasse sul Gavi, ti sembra? Che sì, sì, intanto grazie mille che almeno una persona beve un vino piemontese. Ma insomma, no, poi in Piemonte cosa c'è? Suggerirei, ci sono, suggerirei, c'è il Barolo, ci sono altri vini. C'è il grande vino, il Barolo. Suggerirei a tutti di cambiare spesso le proprie abitudini, di provare tutti i vini italiani, sono tutti splendidi. Posso fare qualche commento alle telefonate? Abbiamo tempo? Proprio 30 secondi, mi sembra. 30. 30 secondi per dire Massimo, che ha centrato bene il problema sulla crisi. Immaginate che sia una vigna in cui si sono dati diserbanti e concimi per 20 anni. Bisogna smettere di dare diserbanti, bisogna lavorare sul terreno in profondità, ma poi bisogna cambiare l'agronomo, perché sennò poi lui le rimette. Bella questa metafora di Oscar Farinetti. Con questa chiudiamo. Roberta Giordano vi dà appuntamento con Non ci sono più le mezze stagioni al prossimo sabato alle 14. Se volete anche Storielle domani alle 19. Buona domenica.